capitano Sommacchi. Certo. Se non c'è idoneo, ma non te li ardo in battente. Guarda, Nino. Lui. Riprenditela. Cazzo nella televisione, vi prego, Natalino? Ui. Allora, sto guardando i prezzi, ma io vedo prezzi normali. Allora, Technology Shop, sì, è aumentato, ma non 200 euro. Allora, Daiwa, CN901, HP addirittura, questo è l'HP, 175 euro, più 6 di spedizione, mi fai 181, da. Certo, è più caro di prima, più caro, però io vedo, vedi, 165, 143, ecco, uguale al mio, 143 euro. Dove l'hai visto a 200 euro tu? Ordinamelo allora! E cosa faccio? Ti anticipo anche i soldi? No, quelli te li do io, che cavolo rompi le scatole! Non esageriamo! Non esageriamo! Se no, se di buon cuore mi vuoi fare un regalo, regalamelo che mi serve! Guarda, se sto ancora piangendo quello della MFG, lo sto ancora piangendo. Oh, non l'abbiamo mai più ritrovato. E sì che abbiamo scartabellato anche per mettere a posto, pulire, abbiamo rivoltato un po' l'appartamento. Niente, quello è stato buttato, te l'ho detto. E il maresciallo è stato. No, no, no, aspetta, blocca tutto, fermi. Allora, stesso sito, che ti ho detto 143, ero sbagliato, era la versione VEU. La versione CN901 normale, versione HF, quello che interessa, 198,50 euro, avevi ragione, più la spedizione ovviamente. Se te l'ho detto, cacca, io quello VEU me l'hanno sequestrato, ce l'avevo io quello lì. Guarda, il prezzo migliore come sempre sarà Media Globe, il prezzo migliore Media Globe, la versione HP purtroppo, vabbè, a me piace più quello con il 20 watt di fondo scale, più dettagliata, l'altro dai 20 ai 10, dai, vabbè, già capito, 178 euro, ho capito, in arrivo però, non ce l'hanno, qui sta arrivando, 178 più la spedizione. Figurati, te l'ho detto, sono impazzito. Sì, ma è tutto più caro, tutto quanto, non si può più comprare niente. Pazienza. Pazienza sì, io a quel prezzo non ne comprerei più. E cosa mi devo comprare? Un Bird. Ecco, Bird inizia a essere già roba più seria, per quanto spartano, a me non piace l'aspetto, però l'aspetto è una cosa e il funzionamento è un'altra. Marco lì. Eia. Ma ho fatto lì, dov'è che posso trovarlo? Ordinandolo. Hai detto il frontalino? Scappa. Ma di cosa? È baracchino. E quale baracchino però? Oddio, il frontalino, addirittura il frontalino, quindi la maschera, la mascherina vuol dire. E di che apparato? Sempre della Fayette. Ma non sappiamo il modello. Devo guardare dietro e ci sarà scritto senz'altro. Dov'è che le trovo? Frontalino, mascherina, come vogliamo chiamarla? Però se l'apparato è datato... già lo trovi domani. Guarda, le manopole per esempio di 3009 trovi, vabbè, del 3009 però è un classico, trovi le manopole, trovi lo Smith a caro prezzo, trovi il frontalino barra mascherina, la cornice cromata, però a seconda di che apparato è mi interessa soltanto il frontalino e basta, la mascherina dai e c'è davanti. Ma di quale apparecchio, Tony? Della Fayette. Perché io un 3009 ce l'ho che non funziona e ci avrei i tappi tutto quanto. Sì, ma se bisogna vedere, allora io ho 1, 2, 3, 4, 5 roppole e 6 tastini. Ho quelli del 3009, perché a me mi si è rovinato quel 3009 e non praticamente ce l'ho smontato. Se tu mi mandi la foto, io prima lo guardo se si può adattare qui, se si può adattare è fatta. Non lo so se si può adattare. Marco, tu lo conosci l'apparato di Tonino? Lui ha detto detto Lafayette, ma sulla targhetta di dietro ci dovrebbe essere il modello. Lafayette ne ha fatto 1 miliardo di modelli. Lo so, infatti non si sa se vada bene per Tonino quello che ho io, il frontalino è, come si dice, bisogna vedere se c'ha i tastini come quelli lì, se no magari non andare, è lì sul discorso. Aspetta un po'. Funziona? No, non funziona. Oh, c'è certe funzioni che funzionano solo in FM. Vabbè. Comunque ho visto un altro prezzo, FLQ elettronica, che vabbè è un po' più caro della media, Media Globe è il migliore come prezzi. FLQ elettronica, quello che vuoi tu, versione HP, 209 euro, più la spedizione. È vero, stanno salendo troppo i prezzi, cioè non puoi comprare più niente, manco per la 27. Immagina quanto può costare un MC60 adesso, nuovo, sempre che lo trovi. Ehi, 200 e a che cosa euro, Guccia? Il cacchio. Ah, forse di più, però costa più di 200 euro tranquillamente. Meno male che ce l'ho qui, adesso l'ho dato a quello là. Spezzone e l'ho dato a quello là, a vedere se va meglio. Ma Franco non c'è più, no? Mi sembra che costi. No, saranno dei soldi, troppi soldi ci vogliono. Comunque Marconi, il frontalino dove si può cercare su internet? Guarda, la verità, allora io ti faccio sempre l'esempio del 3009 perché è un apparecchio che ce l'hanno in tutto il mondo, lo fanno, no, tuttora adesso non lo fanno più, credo. Però degli altri apparati io francamente di frontalino non ho sentito, cioè qualsiasi apparato, anche nuovo, se io volessi il frontalino di questo, che questo è tuttora in vendita, in produzione, non lo troverai mai, e così tutti gli altri apparati. E oddio, un problema. Io guarda, quando cerchi il frontalino baracchino CB, oppure a meno che non sia recuperato da pezzi di un altro apparato bruciato, smontato, capito? Sì, capo. Io sono andato, ho cercato, diciamo, su eBay e ho trovato più o meno, cioè, simile a quello che ho io, però parla di baracchino intero, non parla di frontalini. Oh, mi vuoi un frontalino della Clio, esatto, non va bene quello. Ma cosa la Clio è finita? Il frontalino della Clio. Ciao Tony, buonasera. Capo, ciao Fra. Come ti arrivo Fra? Bene? Quelle zone. Qua stai arrivando 9:20 e Radio 5. Ok, la radio mi interessava. Tutto qua Fra, sto usando di nuovo conosciute famose. E già va bene, dai. Va bene, ultima valutazione. Sai quali trovi di frontalini? Di tutte le forme, di tutti i colori, del 48. Del 48 trovi frontalini di tutti i tipi, sia originali sia con la bandiera americana, quelle cose lì. Poi c'è il frontalino di un Ranger, per dire, no? Però è roba recuperata quella, non è roba in vendita dai negozi, non sono pezzi nuovi, mi capito. Del 3009 sto vedendo dove li trovi. Macello, cioè alla fine non ne vale la pena, mi. Che apparecchio è tu? Raffaele, allora io ho trovato su internet che si può datare il mio, però vedo il baracchino intero. Assomiglia al mio, che non è il mio però, diciamo. Raffaele ha 2004 FM, capito? Più o meno come la mascherina, vabbè, ma mica puoi recuperare un baracchino, ma svuota la mascherina e metterlo qua, ma siamo scemi. Lafayette, io ce li ho un paio di mascherine ma non vanno bene per il tuo, sono diverse. Capito Marco, lì comunque, Lafayette 2004 FM, va bene con la mascherina, vedi, l'ha dato qua. L'ho visto, sì, ho cercato, lo conosco, quello, caspita, addirittura è un apparato anni 80, quelle mascherine lì, e ti ho detto dovresti trovare un apparecchio simile, anche bruciato, rovinato e prendere i pezzi, togliere tutto quello che ti serve, manopole, frontalino, eccetera. Guarda, qualcosa, vedo che le immagini ci sono, ah no, ma sono dei test questi, non è in vendita. E poi, a dirla tutta, se tu vuoi comprare anche un baracchino bruciato per togliere tutto, una manopola e tutto, ti chiedono delle cifre, casomai se lo compri funzionante, se aggiungi 20-30 euro lo compri funzionante. Comunque non si trova una scheda così come sto cercando io, Marco lì. No, è roba troppo retro, mi ricordo quegli apparati, mi piacevano anche a me, tutti mi piacevano all'epoca, tipo quello che hai detto tu, mi piacevano la serie Again, mi piaceva la serie quell'altro, Legging Quinto, tutti quelli di quelle dell'epoca mi piacevano, però i prezzi erano... Non potevo, non avevo potere economico all'epoca. Sì, conosco la Game Quinto. Sì, erano ultimi apparati comunque, tutto nero. Io, ripeto, se trovo anche la maschera nera, cromata, come si acciappa, io la prendo. Vabbè, faccio una piccola ricerca e cercherò di mettere l'annuncio se qualcuno ha qualche cosa del genere. Tutti, poi c'era anche il Majorecco all'epoca, non ce n'era uno che non mi piacesse, per quanto banale poi, perché erano tutti neri, manopole nere, non è che non avevi cromature, eppure. Da lì non ti addormentare. Quello sia, a quest'ora si starà strafogandomi. Ci sta strozzando. Perché lui deve prendere questo farmaco un po' dopo, no? E se cena tardi deve rimanere sveglio un bel po' prima di prenderlo, capito? Allora mangia prima. Però se niente baracchere questa settimana la televisione. I potenziometri dovete togliere, che non li potete usare, sono vietati. Ma dai, ma oggi non ho altre bacche, no? No, te l'ho detto, sono di riposo. Si è smontato stamattina. Ecco. E poi, comunque, un pochettino contenta, c'è tua zia, dai. Ho capito. Tua zia c'è un po' contenta, almeno. Sì, no, è tranquilla. Non va bene dove l'ho messo. A Puglia. A me non ci arriva. Sì, devo scogitare per quel capo che deve salire su, capito? Togliere tu quella roba che c'è sopra. Sto pensando a cosa mettere, andare a Elco e trovare un qualcosa del genere. Un tappo di pone. No, non un tappo. Allora, il centralino che l'ho messo io fino all'altro che c'è attualmente, c'è un po' di distacco di 15-20 cm, metto qualcosa dei capi che non si vedono, capito? Ora pongo la canaletta, buonanotte, mi prezzo canaletta. Allora metto la canaletta bianca, già va bene un pezzo. L'unica soluzione è quella, Manuele, la bottiglia. Anche pure anche il pasticcio, a me non mi piace. No, va bene anche la canaletta, un pezzo di canaletta. Cosa c'è? Ci vuole 15 cm di canaletta. Sarà 15 cm anche, dai, comunque, ok. Ok, bene, mira. Dai, vi saluto che sto chiudendo, Tony. Ciao Torino, ciao Marco, ciao Mattarino, ciao Emanuele e ciao anche Antonio. Eventuali SDQL che sono in ascolto, per me qui ripi, dai, devo fare alcune cosette qua. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao Franco, ciao Tony, saluto veloce, ci sentiamo. Ciao Franco, buona serata, buon tutto, dai. Ciao Emanuele, ciao. Torni pure da parte mia, dai. Che c'ho gente, non posso riprendere. Guardati per me, ciao a tutti. Ciao Franco e per Natalino buona cena. Ciao Natalino, ciao Franco di nuovo, ciao anche Antonio. Ciao a tutti, anche gli ascoltoni. Ciao Biondo. Ciao Brigido. Ciao Natalino. Natalino, ti vedi anche sotto nei morti. Mi sono dimenticato di salutare i morti. E guarda, è morto. E quelli di questo canale, questo non è il canale dei morti, non va mai nessuno. Anzi, stasera bisogna attaccare un ciodo, mi da voi mi buco un ciodo da te, l'attacco. Ma cosa stasera vi raga cuna romana? Vabbè, è meno male. E se non avvengo la radio andiamo rimandare. Ma cosa vuoi che ti dica? Là, io chiudo che deve venire gente qua a cena, quindi non posso rimanere, dai. Ci sentiamo alle prossime, che sto preparando il tutto qua. Oggi ci mangiamo buona, tutti da Natalino. trattoria da Natalino, da Natale. Sì, già si difende bene, ha fatto vedere certi manicaretti. Poi ho visto che adesso avete un po', come dire, adesso ingranato con la passione della Fainé, visto che inverno è buona e si gradisce a farla in casa, capito? Sì, l'avevo già fatta, l'ho fatto vedere Antonino, l'ho fatto vedere Antonio e tutti i cazzo sono pochi anche da fare la Fainé. No, ma è l'unica soluzione, quando c'è freddo fai la Fainé in casa, è tutta un'altra cosa, capito Marco? Ma mi voglio comprare più in là, non adesso. A me non mi faccio Fainé, faccio pizza, proprio il forno adatto mi voglio prendere, che non costa neanche tanto. E poi avevo sentito quella diatriba sull'olio, che qualcuno metteva l'olio nell'impasto, qualcuno no. E in realtà l'olio dovrebbe prenderselo dalla teglia, no? Un po' dalla teglia se lo prende, se lo beve. Se no diventa una cosa un po' pesante, no? E infatti, io non l'ho mai messo a mettere l'impasto l'olio. Sempre nella teglia e basta, 7 cucchiai e oliata dentro la teglia e basta. E infatti quella persona là io l'ho telefonato e mi ha confermato, solo nella teglia, non nell'impasto. Oh, poi magari, poi vabbè, quando la mangi anche in superficie te ne accorgi che è un po' unta, a meno che qualcuno ne metta proprio una goccia appena appena, tanto per dire. Certo, se la riempi d'olio viene una porcheria. No, se non metti mezzo l'impasto esci un ciocio, ma con l'immagineria. Non va bene, no. Comunque la prima che ho fatto io è troppo bella, troppo buona, guarda. Non so se la faccio in questi giorni di nuovo. Dopo per l'altro, però non so, ovviamente è antiaderente, no? Vabbè, che domande, certo, se lo diventa si attacca tutta, nonostante l'olio si attacca lo stesso. Ascolta, chi l'ha avuto di voi? Vabbè, Franco è andato via, il Lafayette LMS 200, ve lo ricordate? Quello quanto mi piaceva, nonostante fosse marrone, marroncino lo chassis, e aveva la monopola centrale, aveva 50 canali per banda, 4 bande. Sì, sì, 200 canali, conosciamo. Infatti Gianfranco Maltimora usava la Fayette LMS 200 con lo sciure. Esci una bomba. Aveva appunto 50 canali per banda, praticamente avevi 100 sopra e 100 sotto i canali. Esatto. Tu mi stai chiedendo che fine ha fatto? Sarà in pensione adesso, non ho più visto. Io sono anni che non lo vedo. Oh, c'è gente che fa i video, che ha le pile di LMS 200 nuovi, di Agin Quinto, e non ne vende, li fa per far crepare gli appassionati. Ma io conosco un vecchio Jimmy che è vecchio, non tanto vecchio, c'è un vecchiotto, dai, 30 anni, insomma, che ha apparati che gliel'ho chiesto uno, se non lo vedeva neanche a parlarne, lo tiene in vetrina, ma piglia della luce. Io mi ricordo che ce l'aveva dove c'era il soccorso, può essere, c'aveva l'antenna, mi ricordo. Il soccorso lui lavorava lì, capito? Insieme alla moglie, poi sono separati e ciccia, ognuno per conto suo, sono spariti. Io vedo Graziella ogni tanto. Io mi ricordo che c'era l'antenna piazzata lì, perché siccome ogni tanto l'ho utilizzato anche mio padre all'epoca, ma sto parlando degli anni 90, sto parlando. Vai. Avanti il break. Buonasera dottor, doppio rum, avanti. Ciao Gianni, ben entrato Antonio e Marcolino. E ci avesse anche il cicomino. Ciao a tutti. E beh, doppio. Oui, ciao Marco, e allora, come andiamo? Ma al solito. E beh, si cattura là, in quella zona di Cantatoria lì. Stavo cantando sino adesso, stavo facendo un contest. Sì, anche lì la scusa è di cantare, ma lì si conosce un pelo. Ma io lì sinceramente, sì, l'ho conosciuto, ma sono di fuori. E beh, come la discoteca, io mica uno va lì per la passione della musica o per farsi sfondare i timpani o crepare il caldo, va lì perché c'è movimento. scappa. Cosa volevo dire? Niente, non volevo dire niente. Come i coppi, si usano un apparecchio che non usavo da un anno vero, dall'inverno scorso. Perfetto, fondo scala, canale 5, fondo scala e radio 5. Cosa mi hai ricordato? Da ragazzino che i primi giorni che entravo, che non conoscevo lo Smitter, a uno gli avevo detto che arrivava a Santiago 10 ed era 9 più 10. Noi dicevamo Santiago del Cile e Radio Monte Carlo. Santiago 10, all'anima dei segnali. Radio Olimpia del Coale. A tu e me, come va? Ma eri fuori? Era a Cartelliero, due giorni. E chi c'era? Oh, dei gruppi sardi, tutti mischiati erano. Cantante Lugo Dorese, cantante Bimbui, poi l'indomani c'erano un po' di musica, gli dici che cantano, io lo chiamo che cantano con la bocca, che sono coordinati, si buone a cantare, tipo me di Baccazzo, che si mettono a cantare, si mettono, sono coordinati, capito? E poi altri gruppi sardi, roba così era, robetta così. Cosa c'era? Cortesia aperta? No, era... Cazzo, non mi ricordo adesso, no, non è Cortesia aperta. Io non mi ricordo. Comunque abbiamo fatto quella roba lì. Tu pare. Meglio di niente. E poi ieri abbiamo finito e... Aver regalato tutto, alle 2 sono finito, sono arrivato a casa alle 2 del mattino. Vabbè, quello è il lavoro, purtroppo. Avanti, tu... tu e Antonio avete più o meno lo stesso segnale qua. Capo. Va bene. E quindi separate in due, non penso di non capire nessuno dei due. Ma siamo anche parliamo una volta. Perciò per il canale, cioè per il segnale che è uguale, capito? Che è meno uguale, qualche millesimo e poi basta di differenza. Bene Meda e Marco Ninos. Io penso che chiuderò presto. Gianni è entrato vabbè un po' tardi, c'era Franco prima, c'era Natalino, poi un pomeriggio è entrato Pomponio, però Natalino ha detto come dire, ha fatto capire grazie a Dio che oggi è entrata gente, ma lui mi aveva detto che stavate entrando, quando ho capito era un mezzo morturo invece e lo chiamo il canale dei morti. Ma per entrare, fare un po' di armonia, essere felici, tranquilli. Invece di burrulliamo a centrare tutti i gatti. Ma è faticoso già, cioè mi devo stare sul divano, devo scendere la radio, premere il PTT, ma stiamo scherzando? Io ho provato alle 5, non c'era nessuno, che... Io l'ho addormentato, Io c'ho ospiti, se ne sono andati a quell'ora lì, se ne sono andato. Poi già, io sto facendo quasi il badante, quindi capite che ben poco posso entrare. Purtroppo, loro hanno fatto tanto per noi e anche noi dobbiamo fare qualcosa per loro. Giusto, giustissimo, ci mancherebbe, proprio sembra una cosa della vita, come per nonna, cioè nonna l'ha fatto per me da piccolo perché ha aiutato molto mamma e io l'avevo fatto anche per nonna quando non era più autosufficiente, mi sembra giusto, voglio vedere quanti giovani di oggi lo faranno per i genitori in futuro, voglio vedere. Io gli ho dato tanto, grazie Gabriele, io gli ho dato tanto e adesso devo pensare alla mia famiglia, adesso ho la mia di famiglia, ho già dato tanto negli anni passati, facevo tutto il babysitter, trovavo lavoro in terra, cucinare, tutto, anche lui non si muoveva, manca il roccio, vabbè non sto a dire le cose, adesso basta, adesso ho pensato alla mia famiglia. È giusto che sia così anche tu. Qualche cosa ce l'hai avuta, dai, almeno la casa ce l'hai. Sì, certo che ce l'ho. Mi sono pagando tutti i debiti, tutti i casini, ho la casa e sono tranquillo. E allora, piano piano, gli assisci. Oh già, dimmi. Io mi ricordo tempo fa, no, quando mamma già un po' di salute, sai, aveva bisogno d'aiuto, eccetera, no? era entrato a salutare Walter sul canale, e quando aveva sentito che io praticamente aiutavo mamma in tutto e per tutto, ha detto: beh, questo ti fa onore. E come che spero stia diventando questa cosa un'eccezione e non la regola, quello anche di occuparsi dei genitori. Certo, se uno lavora di fuori non può occuparsene, chiama un badante, quello che è. Però ho capito, sta diventando l'eccezione e non la regola. Vabbè, noi siamo della vecchia guardia, magari queste cose si sono sempre fatte a casa. Certi non credo più che i giovani lo faranno in futuro, ho capito. Diranno ai genitori: beh, grazie e arrivederci, arrangetevi, come dire, è brutto a sentire. Ma adesso sai cosa fanno? Li mettono nel caso di riposo, se ne frega. Io mio padre, non per vantarmi, ma l'ho tenuto 14 anni a casa mia, capito? Sì, e beh, noi anche nonna cioè, si era anche ipotizzato, ma abbiamo visto le facce chi gestiva questi posti. A me dall'esterno sembravano dei lager. E poi sai che discorsi ti facevano, no? Hanno chiesto quanto prende la signora di pensione, per dire, no? E quella ha chiesto quanto prende, no aspetta, non l'ho spiegato male, dicevamo quanto è la retta, noi avevamo chiesto per ai tempi di nonna, no? E allora questa ha risposto, una faccia poi la deve vedere, e dice quanto prende la signora di pensione, e prende tot, e dice la retta è tot, cioè se le avessimo detto 1000 euro la retta era 1000 euro, se avessimo detto che nonna prendeva 3000 euro sarebbe stata 3000 euro, cioè loro sarebbero incanalati tutta gli ingressi di nonna, tutta la pensione di nonna, capito? E mi chiedo se trattino anche in proporzione, cioè se una prende poco la trattano di cacca, magari se prendiamo di più la trattano meglio. Allucinante, guarda. No, poi abbiamo detto, per carità di Dio, abbiamo visto le facce, i posti anche, lasciamo perdere, sono dei lager veri e propri. È vero, perché posso confermare io, senza andare a salutare, non fare nomi, e la casa di riposo le Baggiara, ho detto tutto, la GDBC. Io dico una cosa, secondo me queste case di riposo sono l'anticamera della morte, loro sembra che aspettino la morte questi anziani che ci sono. Già, ma mi hai rubato le parole di bocca, lo stavo per dire. Io avevo intravisto da fuori, da delle finestre, questa casa di riposo che non diremo dov'è, forse l'avevo già detto, ma meglio non ripeterlo. E vedi queste anziane, anche proprio vecchie, con le bende ai polsi per non farle muovere, alzare dal letto, forse perché erano di testa, non ci stavano più, ma sembravano veramente, mi ha fatto impressione, sembravano l'anticamera della morte. Tipo i cronici. Sì, ma i cronici non li conosco, però brutto vedersi, perché, ma guarda, infatti è meglio morire un colpo secco, improvviso, tipo nonno. Un infarto fulminante, era dal notaio, pensa, per fare una vendita. Infarto fulminante, manco accorto se ne. Però rimanere attaccati ai tubi o finire in quei posti, no, meglio niente, meglio un colpo secco, molto meglio, speriamo che. Chissà che fine faremo noi, io mi domando sempre questo, chissà che fine faremo. A noi, a nostra nonna, sopravvissuto qua, l'abbiamo tenuta fino a come se ne è andata. Babbo non ha mai voluto metterla in un istituto. Ma poi anche perché non c'era bisogno, anche se abbiamo subito un'operazione un po' particolare, si è ancora subito in piedi. Non era un problema, capito? E poi fino all'ultimo l'abbiamo tenuta. Oh, senza contare poi, a parte l'ambiente brutto, l'isolamento dai familiari, ma in certi posti li menano. Avete visto in TV certe volte anche alle Iene, cose del genere, cose allucinanti, allucinanti. Li lasciavano in mezzo ai loro escrementi, oppure proprio fisicamente li picchiavano, perché quando giustamente l'anziano è fuori di testa, per fortuna che mamma ancora già è, già ragione tutto, per dire. Ma lì gli tiravano la testa al muro, cioè cose folli, folli. Non tutti sono adatti a trattare con gli anziani, e così lo stesso per i bambini, non tutti sono adatti a trattare con persone sensibili, capito? Grazie a Dio, mamma è rimasta sempre a casa, quindi ho detto domani sarò luci in casa mia, e infatti così sempre è successo, e basta. Allora, io ho ripreso il volo perché adesso faccio il QRT, perché mi aspettano i cugini. Antoni, ci sentiamo con prosegue. Ciao Marconi, da ciao Antoni, eventuali ascoltori. Quarantena con la parte mia. Ciao ciao. Ciao Antoni, ciao. Ciao Antoni, ciao, ci sentiamo. Ciao Tonino, buon correttivo, buon proseguimento di serata, ci sentiamo alle prossime. Gianni, io vado a bere che sto asciuttando, come dici tu. Vai tranquillo Marco, vai, metti la voce da vicino, così lo devi alzare, no? Lo so, però noi già l'ho conosciuta, quindi già lo so che era lì. Già te lo ricordi, puretto? No, noi l'abbiamo sempre, Miyagi Tome, l'abbiamo sempre trattata benissimo, l'abbiamo, sempre sempre, non ci sono mai dato nessun problema. Beh, se non sbaglio era a casa di Fanona, quella di vero. Cappa. E quindi vabbè. Sì che sta va bene, la tranquilla, dai. Poi non lo so, io dopo un po' vi ho perso di vista, quindi non ho più vista, però io l'ho conosciuta ed era abbastanza arrisa. Non te lo ricordi. Io me la metto un braiato in grembo. Ma poi Muriga chi c'ha ammazza la fa di Muriga. Quella pazza me l'ha ammazzata di tutti. La pazza! Ah, la pazza! Chi sa pure è gabbo? Ti l'ha ammazzato. Ma quello meno che fine ha fatto? Ah, carina Sinandia. Io mi ricordo che ce n'avevi uno nero, in più ce ne avevi uno che ti avevo regalato io di mia sorella, te lo ricordi? Avvelenati sono state. Quella lì l'ha ammazzata. Allora, cazzo. Io la giumorse, cazzo, non è muore morire una di... che cosa hai combinato me? Per farli fuori così, per non rompere le scatole. Allora, sempre un prendere di cattoli era. Mica ho attaccato il portatile me. Io va bene, non me ne gioco a capizzare. Te l'ho fatto in contemporanea, l'ho fatto. Io va bene, certo. E di lusso quel portatile. Cappa cappa. E mi pare che anche tuo padre ne avesse uno preciso. Sì, sì, sì. Non l'hai trovato? Sì che funziona, l'ho venduto. Ah, te l'ha venduto? Ehi, l'ho venduto. Paga. Questo è il gemello, Questo è quello che mi hai avviato tu. Avete parlato in due. Ho detto che è quello che mi ha parlato Gianni questo. Marco. Sì, ah. Ma sai cosa mi è successo? Non mi funziona più il telefono. Cioè vado a fare le chiamate, fa dirudu e cade la telefonata. Se chiamo mio nipote che ha lo stesso like a mobile come me, praticamente la telefonata la riceve e risponde pure. Se chiamo altri fa brru e cade la telefonata. Cosa può essere? Già, non saprei, guarda, ne ho parlato stasera con Natalino. È una cosa che era già successa col vecchio telefono, che però non c'entra il telefono, perché prima era Huawei, adesso è Xiaomi. E allora mi chiamano e da me non squilla nulla, e chi chiama sente direttamente occupato, cioè appena composto il numero sente tu e non mi dà la linea. Ed è una cosa che è successa però anche con l'altro cellulare, quindi non il cellulare, è una questione di linea. E stavo pensando che queste O-Mobile, queste sottomarche della Vodafone, così come può essere Kena Mobile con di Team, no? Ogni tanto quando ci sia il traffico intasato diano la precedenza all'operatore vero e proprio e le sottomarche le ignorino, capito? Li tolgono un po' la linea. Lì invece il problema è un altro, quando chiami tu lo fa, così è. Esatto, io le telefonate le ricevo, però se vado a chiamare non fa nemmeno lo scrivo, fa tururu e scrive linea, no, chiamata terminata. Ascolta, le schede, hai avuto modo di provarla su un altro telefono tipo per capire se il telefono o se la linea telefonica? No, non ho avuto modo, non ho provato. Però non capisco cosa sia, perché se fosse stato il telefono non avrebbe funzionato, ma con Maurizio che c'ha lo stesso operatore mio e con lui funziona. Lo chiama e lui risponde, io rispondo e mi sente, capito? quindi è solo con le altre, con la team, con, perché mio figlio c'ha team e lo chiamo e mi fa quel lavoro lì, chiamo per dire amiche mie, lo stesso mi fa quel lavoro lì, è un casino, non riesco a telefonare, se c'è o dove c'è o meno un'urgenza non posso telefonare, perché questo telefonaccio domani vado in Via d'Italia, glielo porto e glielo faccio vedere, gli dico cosa può essere, perché io la ricarica l'ho fatta da poco, quindi non è possibile, a meno che mi abbiano mangiato tutti i soldi. E sono andato sul, sull'impostazione del telefono e mi dice praticamente nessun pacco esistente. Prova a cercare di spegnerlo. Sì, bisognerebbe provarlo su un telefonino anche a tastini, se c'hai un vecchio telefonino a tasti ma funzionante, mettere la SIM e vedere se funziona. E comunque questa cosa invece che ho riscontrato io me la facevo anche con Iliad, cioè mi chiamavano e però in quel caso squillava libero per chi chiamava e poi sentivi di botto tu come che gli chiudessi la chiamata. E uno mi aveva detto, dice ma perché mi hai chiuso la chiamata? Ho detto io non ho ricevuto nemmeno la chiamata, non ho sentito nemmeno squillare, capito? Invece magari con gli operatori, vedi, tipo Vodafone Vera, Team Vera non me l'ha mai fatto, è una mia ipotesi, poi è che sia, cioè, capito, clienti di serie A e di serie B. Io guarda, l'ho tolta a Vodafone perché mi rubava i soldi, mettevo la ricarica, dopo 2 secondi controllavo e mancavano già 10 euro, 8 euro, capito? Ce l'aumento. Sì, è vero, anche un parente se n'è accorto, sono un po' abusivi alla Vodafone, tendono a imboscarsi un po' troppa roba, capito? Attivare roba che tu non hai richiesto, è una pratica scorretta. Sì, è vero, ti mettono cose che tu non chiedi e se non telefoni per processare non te la tolgo. È un casino. Io adesso ho paura, ma l'avrebbe fatto anche con Marco, invece con Maurizio, che ha la stessa mia... l'avevo fatto mettere io l'operatore, come si chiama? Laica Mobile. Io non capisco cosa cazzo sia, perché è andato bene sino a poco tempo fa. In questi giorni mi sta facendo questa storia, ho pensato che fosse la wifi, ho messo la TV, niente da fare. Prova a accendere e a spegnerlo a vedere se lo fa. Antonio, dimmi. Allora mi è arrivato un SM, una cosa di WhatsApp, no? E siccome il telefono è nuovo non ti avevo ancora aggiunto a Iliad. Che cavolo sto dicendo, scusate che sono cotto, non ti ho ancora aggiunto alla lista di WhatsApp. Allora sono andato ad aggiungerti come tipo Antonio Bombolo, no? Come vado ad aprire il nuovo contatto, cioè a creare un nuovo contatto che saresti tu, mi compare il tuo nome e cognome, ma attenzione alle impostazioni di privacy, perché se tu non volessi dire, far sapere il cognome in giro, è strana questa cosa, a me non mi è capitato mai, inizia con la M il cognome, no, e qua mi compare in chiaro, però non è una cosa che ho messo io, è una cosa predefinita che mi sta mettendo lui. Ah, puttigine, problemi ci sono. No, problemi no, ma mi è sembrata una cosa strana. E cioè che stia mostrando informazioni che il programma in realtà non dovrebbe mostrare. Poi vabbè, WhatsApp è tutto ambiguo, mi è poco sicuro, ecco, vabbè. Comunque adesso ti metto come Antonio Bombolo, dai. Ah, puoi metterlo anche col cognome, non c'entra niente. No, non ve ne problemi noi, no, che... Hai visto che radio sto usando? No, aspetta, prima devo creare il contatto, poi aprire la foto. Cappa. E poi Gianni, se mi può dire che telefono ha al momento, che telefono è quello che ti dà problemi? Io c'ho l'Oppo. No, ma hai controllato su internet quel modello lì, se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema, che sia il modem, che dia qualche problemino il modem, la parte telefonica diciamo, dai, per le telefonate. Adesso faccio domani, faccio tutto, prima di andare tolgo la scheda, la rimetto, lo spengo, ma non è quello lì, perché l'ho spento l'altro giorno, lo stesso non era... lo stesso, addirittura chiamavo in pizzeria e cadeva la linea, allora sono sceso giù perché la pizzeria a fianco a me quando mi cade sempre la linea, pensavo che fosse la linea loro. E lei ha detto aspetta che controlliamo subito già. Ha controllato, dice no, qua la linea è tranquilla, vedi, ho chiamato con il mio telefono e risponde. Prova a accenderlo e rispegnerlo già. Già fatto tu, però fa lo stesso. Allora non lo so. Devo andare via l'Italia dove ho fatto l'abbonamento e dirgli che sono che lì a trovare parcheggio, è un casino lì in Rosa, non si muove, è un casino. Perché via l'Italia in fondo, quasi dove ci sono le porte di Sassari, una delle porte di Sassari che vanno su via l'Italia, ce l'è presente. Ma se pigliati di ramotto, cosa vuol dire? No, già malaggio, già troppo parcheggio da qualche parte. Devo fare un po' di strada a piedi, ma già lo trovo. Devo andare verso via Milano, verso quella zona lì. E niente. Poi ti ho detto di venire a parlare loro, non mi sei mai giunto. Ma buscatola. Se stavo lavorando, io, i giorni che non potevo venire, già vengo, mi sa che domani devo uscire, cioè devo andare a fare una cosa, poi, vabbè dai, poi passo, cioè no, vabbè, è troppo tardi, poi ci fa mezzogiorno. No, domani no, a tu, perché devo farmi la spesa, poi devo andare via l'Italia a fare quel lavoro lì, capito? Se ce la faccio devo andare anche a mettere il gas, non lo so se ce la faccio. Niente. La macchina l'ho portata, abbiamo resettato tutto quanto. Metto, se te lo rifai c'è da cambiare una bobina. Ciao. Intanto qualche piccola. No, la mamma ogni tanto dava colpi, ma adesso non lo sta facendo da quando l'ha resettato, ha detto che poi c'era anche l'umidità. Sì, potrebbe essere, sì. Troppa elettronica c'è, cioè. Non andava così, no. Tu figurati le macchine elettriche, uia, ne riparleremo. Tu dico no, ma sono ben schermate, tutto tanto. La roba elettrica con l'umidità, c'è poco da fare. Questa è schermata grazie a lui, ma l'umidità è tra le parti. Giarrido, se in qualche macchina elettrica ci mette il baracchino, fa rientro, ti esplode tipo l'airbag in faccia, oppure ci si dritta, o non frena, qui è tutto elettronico, per carità, senza parlare del QRM che magari genera il motore elettrico, è una mia teoria, dentro il baracchino, il rumore che farà, se sarà rumoroso o no, e comunque rientri lì, non lo so mica quanto siano schermatemi. Io ho visto la Tesla da vicino, ma è vuota, una macchina che non c'ha cruscotto, telefono. Cioè, mi piace più la macchina normale, quella dei vecchi tempi. La Opel che c'avevo io, quella era bella, quella andava, non mi ha mai dato un problema quella macchina, mai. Dopo 350.000 km non prendeva l'accelerante, cioè da cambiare un sensore, ma costava 80 euro questo sensore, ma ha fatto 350.000 km, non so se mi spiego. Ma allora erano più meccaniche, adesso sono troppo elettroniche il gatto delle macchine, mamma mia, qua. C'è un portapizza qua che ce l'ha, la Nissan c'ha. Ma c'è quando cammina, arriva sempre sparato. C'è una di quelle Nissan grandi, vedi, quelle tipo quella di borsa di BMW, quelli vedi lì, grossa. Però è sempre elettrica, si deve andare a Cagliari, si deve fermare per... sì che caricassero da sole con la dinamo come caricavano le altre macchine o con l'alternatore che si carichi da sola la batteria senza stare attaccata con un filo. Sono macchine fatte per cosa? Secondo me c'è anche la 500 così, ma tutta elettrica, ma io non sono d'accordo. A me ne metti in giro con il rombo del motore, ma in me sono venuto dai bagni su fare rompere la loro il mare. Poi se tu stai attraversando, manco la senti quella macchina. Lo so. Non ti puoi manco scansare. Ci castigheggia nel buco. No, ma cazzigà no, perché deve rispettare le regole. Sì, vabbè, ma dico, c'è una cosa. cosa improvvisa, una macchina benzina la senti. E io, noi ce l'avevamo in ditta, mia tu, ce l'avevamo in Nissan, furgone Nissan, e lo chiamavo silenzioso mio collega, perché quando arrivava non si sentiva mai, ecco, non si sentiva che andavi via. Io prima col furgone, quando arrivavo col camion, mi sentivano che stavo arrivando, ecco, non si sentiva nulla. Dai, dai. Io non sono d'accordo, per me una macchina, se non si sente il motore, non ha senso neanche guidarla. L'hanno presa per provare, no? Perché per il risparmio, tutto. Ma io penso, se tu accendi lo stereo già consumi più energia, devi stare attento anche a ascoltarti la musica, perché accendi lo stereo magari consuma troppa energia. Oh, sei proprio una cazzata, sono batterie fortissime quelle. Proprio quello, guarda, no, non è un problema. Però boh. Da quando sono forti esplodono, perché ne sono già esplose due o tre, ho visto su internet, che arrivando buco, una è incendiato un cappallone addirittura, l'altra è scoppiata a mezzo strada. Non è che sono tra le più sicure, no? Così poi chissà Tesla, mamma mia. E la Tesla io l'ho vista da vicino, ce l'ha uno di Abonov. L'ho vista da vicino, mi sono avvicinato a vederla, ma lo scotto è liscio, non si vede nulla, uno strumento, una cosa, mi tocca il turismo. Ma cazzo, macchina da Brodione, so. Fare la macchina spaziale. Ero al telefono e non ho sentito la risposta di prima riguardo al rientri. Ho detto, magari ti scoppia l'albergo in faccia, se usi il baracchino. Sì, Marco, non ho dire scherzato, perché adesso scoppiate già due, li ho visto su internet, uno ha incendiato un capannone, l'altro è scoppiato in mezzo strada. Cioè, sono pericolosi, batterie pericolosissime sono. Sì, praticamente sono a litio, vabbè, come ce l'abbiamo noi, però lì è enorme, ce n'è una marea lì, e dice che è un problema anche spegnerle, anche i pompieri quando spengono il fuoco, sembra spento, però basta che entri un po' di aria in una delle celle che si deteriorano col calore lì e riprende il fuoco, è un casino. Infatti dice che è un pericolo quasi lasciarle nei parcheggi interni dei palazzi, e a seconda di dove vai manco te la fanno parcheggiare, tipo qualche parcheggio pubblico, non si fidano quelli interratimi, se no da lì diventa un altro forno. Anche quello a gas dovrebbe essere così, perché si possono parcheggiare. L'ho sentito dire, non so se sia vero, però anche quello a gas non si potrebbero mettere nei parcheggi sotterranei. Sì, l'avevo sentito anch'io, non sapevo se era una bufola o se era vero. È un po' così questa roba ancora, sapete? Le batterie un po' sono, e più di una ha preso fuoco, e poi hai visto come bruciano, proprio con fiamma viva, come escono i gas sotto pressione, quindi queste fiammate proprio tipo gettomi. Sì. Tu prova a bucare il tuo cellulare a vedere. Se ci fosse ossigeno che le alimenta. Ripeti Anto? Tu prova a bucare il tuo cellulare a vedere. Sì, volevo farlo con col vecchio telefono, mica è gonfia la batteria. Con la carabina, gli faccio un buco, voglio vedere la fiammata. Qua ti stavo dicendo, sì Anto, ho visto, ma stai usando quello attualmente? Quello lì è. Ah, credevo che fosse un veicolare almeno. No, perché ti dicevo un po' che la modulazione è un po' cupa, però non so se sia l'apparato in sé o se influisca qualcosina di aiuto che c'hai, la fa un po' più chiusa, un po' più cupa a me. Non penso, no. Quello piaceva molto a me col portatile, era quello col display più grande, con più funzioni, poi ho detto, vabbè, poi non ne uso tanto alla fine. Io l'ho regalato a Giulio perché non lo usavo. Non lo senti, sta andando. Allora, quelli dovrebbero andare meglio in FM, quei portatili, in FM, è più limpida, a patto però di aprire il trimmer, perché te li danno sempre col trimmer chiuso, no? La deviazione bisogna regolargliela bene, capo. Sì, guarda, ho fatto una modifica, com'è adesso? Parla un po'. 1, 2, 3, prova. Ma forse un tantino meglio, naturalmente la modulazione è un po' non amplificata, no, già lo sai. Si può mettere il mic esterno, mi pare di sì, però sai cos'è, lì deve essere a condensatore. Vabbè, anche questo è a condensatore, però già esce. Sì che si può mettere, lo vendo. Eia, magari migliora un po', perché sai, quello interno è sempre un po' più soffocato come audio. E io già mi ricordavo quello che c'avevo io di portatile. Era il modello Intec, quello più per poveri. Era una schifezza, usciva, non usciva quasi di radio. E ma che soccorsa, burro? Attacchi quello di vero per il microfono. Come c'ha? No, quell'apparato lì c'ha due attacchi per il microfono, per sentire e per parlare, tutto quanto dal microfono. Sì, sì, sì. Io ce l'ho l'originale, quello della Midra. Ebbene, andava pure in occhi. E certo che va bene. Cappa, non lo so, no. Comunque funziona alla grande, funziona, eh. È nuovo, dicevo di te, cosa non valutano. Era nuovo, nuovo. Sì, ogni tanto lo uso. Me, ho sentito il bambino. E giocando sta. Gabriele, non sei vende. Si ha fatto caduto che vuole scoprire e cominciare a farti la roba in terra. Quando sono piccoli sono così belli, anche se un po' ti rompono perché non ti fanno dormire a volte la notte, ma sono troppo belli. Quando a me mi chiamava, la mamma mi chiamava Pappane, è la prima parola che ha fatto, Pappane, mi associavo al pane, boh. Dice ta-ta-ta, buggi-buggi-du, poi no, già mi chiama Papà. Fa la femminuccia. Te immagini poter scegliere il sesso del nascituro? Invece è a sorpresa. Io non l'ho scelto, però ho avuto fortuna. Ho avuto maschio e femmina. Sì, quello secondo me è il massimo. E per la completezza, sai, poi c'è un genitore che preferisce più maschietto, chi più la femminuccia. Ah vabbè, io già non mi sono messo questo problema perché non c'ho pazienza, no, non voglio rottura di scatole. Marco, perché non hai provato? Se tu hai un figlio, dovresti avere un figlio e poi mi dà la risposta. Ti sciudi, diventi... ti vai in un gruppo di giuggiole, ti vai. No, già è bello, vai, sono esperienze belle. E poi i figli, anche a vecchiaia ci servono. Però certi figli, ho visto certi figli voltando le spalle a padre, madre, genitori, non gli parlano più. E tu conta, magari il genitore l'ha trattato benissimo, però i figli crescono, subiscono influenze di amici, di tutto, della società, e a seconda di che figlio è, come ho detto prima, dice, beh, arrivederci e grazie, e ti molla lì. E a sorpresa lì anche lì, non sai mai come va a finire. Cosa vuoi fare? Purtroppo è tutto quanto, è tutta una cosa di fortuna avere dei figli bravi, perché magari anche i genitori danno educazioni come si deve, non apprendono l'educazione che li danno i genitori, frequentano gente nofia. Poi, per esempio, in caso di genitori separati, alle volte c'era, che ne so, la madre che aveva i figli, che li aiutava ovviamente contro il padre, e cominciava ad andare a dire ai figli, papà non ci vuole bene, papà non vi vuole bene, capito? Queste schifezze vanno a dire, magari anche qualche padre l'ha fatto. E così i figli cominciano ad andare contro a un genitore o separato o non separato, capito? I figli vanno sempre dalla parte che gli conviene, perché se vede che c'è un genitore che gli dà più soldi, vanno dalla parte dove fa la convenienza, quando sono piccoli specialmente. E poi già ci sono i genitori che magari li mettono contro, si servono dei figli per andare contro l'altro. Grazie a Dio a me non mi è successo, perché io con mia moglie, con la mia ex moglie vado d'accordo. E niente, sono stati educati con tutte le maniere possibili e immaginabili per farli diventare delle persone che sono diventate, perché Manuela ha una testa molto grande, adesso senso che sa quello che fa, è libera di decidere di fare, perché vive da sola, quindi cioè deve farsi tutto da sola, deve destreggiarsi sola, e l'ha sempre fatto, non ha mai chiesto nulla. E beh, è buono quello, perché almeno, come dire, si abitua a cavarsela da sola senza stare a avere troppo l'appoggio o dell'uno o dell'altro, capito? Poi, vabbè, se è necessario si può chiedere, eccetera, no? Però è una cosa buona quella. Certo. Marco sta cercando lavoro, perché stava lavorando, ma poi ha finito la stagione, stava lavorando fuori, e ha finito la stagione, adesso sta cercando un altro lavoro, ma non che non sia quello che ha fatto, perché quello che ha fatto era la cribassa. La stagione? Esatto. Ehi, infatti, ti spremono ben bene. Ascolta, lui, che diploma aveva lui? Non mi ricordo. Lo scientifico, Marco. Ah, bello, lo scientifico è bello. Io, vabbè, ragionieri, matematica, che cosa brutta. Vabbè, comunque, poi mi ci sono pulito il sedere, vabbè, quello è un altro problema mio. Lui stava studiando all'università, poi ha avuto questo... Cosa sia successo, stava andando bene tutto quanto, ha voluto mollare perché non se la sentiva più, ha detto che voleva pensarci un po', perché lui voleva fare il biologo, le mancavano due esami più la tesi per laurearsi, e ha mollato. Solo due esami, però vabbè, un peccato. Poi che ne so, magari ha trovato anche, ora che c'è una mafia anche nelle università, ci possono essere insegnanti o rettori stronzi, posso dirlo, capito, che magari ti mettono in bastone tra le ruote, mi è tutta una cionfra. Sì, ma io penso che qualche cosa l'abbia avuta, perché lui era molto entusiasta di fare quel tipo di lavoro, era diciamo... era prima in biologia, poi ha fatto tecnico biologo, capito? Quindi poteva lavorare in ospedale, per dire, cosa ti posso dire, nel reparto dove fanno le trasfusioni, tutte queste che fanno le analisi, queste cose qua. Seia. Una cosa bella sarebbe stata lavorare al CNR, però adesso, vabbè, quello di Sassari non so se esista più o come ridotto. Per esempio mia zia ci ha lavorato dagli anni 80, primi anni 80, ma era fatto bene, era migliore. Poi sono andati peggiorando, cambiando sede, cambiando direttore, e poi non li facevano fare più niente. Li tenevano in una stanza con un computer, è proprio andato a peggiorare. Ancora non ho visto io, devi vedere tutto, microscopi, macchinari strani, provette, sai, tipo laboratorio di chimica, ma io ero estasiato da bambino quando lo vedevo. Perché ti incuriosiscono queste cose? No, ma Marco era molto entusiasta, gli piaceva proprio questa facoltà, lo capisco, e poi si è speso soldi per i libri, per le tasse, per tutto quanto, sai, un po' ti dà fastidio, sì che tu spendi soldi e poi la cosa va avanti, non mi costa nulla, però quando vedo che sei che così non capisci il perché, lui ha detto che ci deve pensare, adesso ha detto devi pensarci bene, perché tu o devi lavorare o devi andare a studiare, due sono le cose, perché fermo non puoi stare. E poi ci sono, vabbè, certe università sono impegnative, cioè alla fine c'è da scoppiare o esaurirsi. Poi ci sono università più facili, tipo questa di, non so se sia triennale, scienza della comunicazione, più all'acqua di rosa, però certo una laurea proprio banale, però può aiutare, dai. Tanto mi certe volte non trovi mai il lavoro che vuoi, trovi un lavoro, sì, dove chiedono una laurea, magari qualsiasi, ma senza specializzazione, capito? Allora ha fatto scienze dell'educazione, ma ha fatto preso 3 anni lì e poi ho fatto la specialistica, capito? Ho fatto la specializzazione. Ah, fanno gli anni integrativi. Per esempio, Leggi è pesante, forte. Leggi è veramente da scoppiare. Parlo per amicizie. Tant'è che anche lì è difficile arrivare al traguardo se uno non molla pure. Vabbè. Vabbè, più impegnativo, giustamente, più vai avanti, più devi dare, devi rendere, devi essere più, non mi viene in termine, riprendi anche tu. Lì mi hanno sempre detto che la facoltà più facile che c'è, ho sempre sentito così. No, Leggi, no, è più facile. No, guarda, mi ha detto un amico e... per carità, non so nemmeno se abbia finito, ma credo di no. Anche lui mancava poco, però stava veramente scoppiando. Poi aveva, diciamo, altri impegni familiari, ecco. E quindi o si dedicava a uno o all'altro. Non poteva fare tutto. Auto riprendi. Ma l'altro microfono che c'è, dimmi. La cosa più bella è arrangiarsi, perché tanto secondo cosa devi fare è un casino. Oh Gianni, avevo trovato addirittura dopo secoli il mio libretto di lavoro, capirai, e anche l'altro, come si chiama? Tesserino, non tesserino sanitario, e tipo libretto era, riguardava la sanità, no? Pensa che io avevo fatto, quando avevo lavorato lì in discoteca, anche la prova dell'HIV, perché credevo che la chiedessero, invece manco, non mi hanno chiesto niente, proprio alla meno futu. Ah, dai, che travagliato tu. Io, vabbè, in Cambusa, e ti stiamo parlando del 94 e dintorni. Prima al Prince, che era una specie di localino, ma poi è diventato un troiaio, un localino bello su 2 piani, sempre tipo discoteca, balera, come lo vuoi chiamare, stiamo parlando di storia antica, poi Uscello, Biblos, cos'è, tappabuchi, un po' roba del genere, però alla fine non si lasciava lì il libretto, tanto per pararsi il sedere loro, capito? Non controllavano manco se avevi davvero... Vabbè, lasciavo stare, non dovrei nemmeno parlarne. Io guarda Marco, l'ho trovato anche io l'altro giorno, sembra una cosa strana, ma anche io l'ho trovato l'altro giorno, stavo girando un cassetto e ho trovato sia il tesserino sanitario che ma il tesserino, il libretto sanitario che... il lavoro tutti e due. Vabbè, io l'ho usato per tanti anni, io facevo tutto, prima andavamo via Mendola. Poi ho trovato, sai, anche tra i libretti vari antichi, il libretto permesso di pesca in acque dolci. All'epoca avevo fatto anche quello, tutto sprecato, cioè non, a parte ero andato una volta dove era Coina, come si chiama, non prendevi nulla. Io mi ricordo che quando ero molto piccolo, su 3 tiri, col cucchiaino, su 3 tiri, in grosso modo, uno era una trotta, col cucchiaino. Sono andato io, vabbè, credo siano inizi anni 90, non si prendevano la mazza. Poi c'era quest'acqua verdastra, verdognola, e in riva vedi questa specie di alghette verdi, sembrava verde radioattivo, sembrava. Dipende sempre dove vai a pescare, Marco. E andavo al Cuca, un amico mio prendeva certe carpe da 4 kg a 3 kg. Ma per la carpa ci vuole un'esca commestibile, tipo mais o roba del genere. Io l'avevo provato solo col cucchiaino, cioè lanci e recuperi. E tipo spini, e ho capito come. No, ma io guardo. Guarda, le carpe non le avevo mai mangiate, me le ha portate due una volta perché avevo il freezer pieno, non sapevo dove metterle. Me le ha fatte fare a tracci e messe sotto il sale, metto proprio le così, sembra baccalà, e le ho fritte, le ho impanate e fritte con la farina, con la semola, le ho impanate con la semola e poi le ho fritte. Ma tu devi sentire questo sapore, erano buonissimo. Ogni tanto. Ma qualcuno aveva detto le carpe sapevano di terra, ma secondo me balla, o sono state pulite male o malissimo o cucinate peggio, perché mi dite che sono buone. Dipende sempre dove le peschi quello che mangiano, se mangiano fanghille e roba del genere e hanno sapore di terra sì. Avanti ciucucciù. Ma come arrivava? Forte da voi? Abbastanza. A me sembra da latte dolce. Una persona con cui parlavamo tempo fa. M, sei tu, M, M di Milano. Se sei tu, fai ciucucciù. Telefono. Guarda, dai, io vi saluto, devo portare giù il cane, dai, ci sentiamo. Ciao Marco, ciao Antonio. Alle prossime. Adesso vai, comincio a mangiare, va. Ciao Marco, ci sentiamo. Ciao, io sono a tuo telefono. Marcolino. Marcolino. Tutti spariti, bubu. Io sono a tuo telefono, a pari. E capa. Io troppo sto andando a fare da mangiare. Ok, ok, va bene. Marco se ne sarà andato. Gianni dice che deve spostare, deve portare il cane. Vabbè dai, ci sentiamo alle prossime allora, dai. Io adesso ho fatto a mangiare, faccio. E via. Tu già mangiato hai? Io sì, Fra un po' alle 9 mi faccio l'iniezione e mi goku. Scappa, ha trovato un sogno a sola, che vuoi da chi gioca con te, con un gestello, non ha la capiciuca a staccarmi l'antenna, io me lo ammazzo. Toccami tutto, ma non l'antenna. Si vuole provare. Infatti, c'è uno che mette la portante, chi è avanti? Basta, tu che sta portando, mamma mia. Ma lo passo io? Sì, a voglia. Scappa. E qui. Raga, ruba, se no fa il bicio. Vabbè, ci sentiamo, Antuda. Vai di una cucina che io mi guardo un po' di TV nel frattempo. Tanto se anche Marco se n'è andato. Capo, ora è andato a punti al telefono, stiamo a mezz'ora. Ok, dai. E io a casa ce la sentiamo. Ciao, Antuccia. Ciao. Morti? Quasi confidato. C'è nessuno?